Palla Spicchi con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Giorgio De Luca in redazione, Fabio Cantadore in regia. Ma che peccato per Cantù, è finita questa favola meravigliosa, che comunque rimane meravigliosa nonostante quell'ultimo tiro di Basile non sia entrato, quindi il Barcellona abbia vinto ieri a Cantù e l'eliminazione sia arrivata. È un piacere per me ritrovare, dopo un'assenza anche troppo lunga, Vittorio Gallinari. Ciao, sì, Vittorio. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao coach Dan Peterson. Ciao caro Gallo, un grande abbraccio, ok? Salve coach. Ti ho portato il Gallo, sei contento? Grande Gallo. Il Gallo è il numero uno, ragazzi. Okay? No, dopo di lei coach, lei è il numero uno. Senti, la prima domanda è ovviamente come sta Danilo? Ma meglio, sta migliorando, avevano detto 4-5 settimane, probabilmente il tempo sarà quello. Penso che possa rientrare i primi di marzo. Primi di marzo, anche perché Denver nella notte, dodicesima sconfitta nelle ultime 16 partite, ma praticamente forse hanno convocato anche te, no? Sì, ma siccome ero lì quando ho fatto il training camp, adesso mi hanno richiamato, ma ormai ho già firmato in Italia, per cui non posso più tornare. Firmato in Italia per chi? Non puoi dirlo. Non posso dirlo, lo saprete, lo saprete a breve. Se no Dan Peterson è geloso, eh? Vero coach? Senti coach, tutta la crudeltà dell'Eurolega su Cantù, eh? Ah sì, ma guarda, Cantù ha fatto una partita ieri sera, cioè proprio con le unghie, proprio con tutto, e meritavano di vincere, tra l'altro. Infatti noi qui a Sport Italia abbiamo riguardato le immagini dei falli presunti, non presunti, non sono presunti, sono stati veri. Sada su Basile alla fine lei, cioè, ma non voglio fermarmi su questo esempio qua, cioè, ci sono stati un paio di fischi lì, uno a favore di Navarro, uno ai danni di Basile, cioè uno sta bene, due non sta bene, però quest'anno abbiamo notato tutti noi che gli arbitraggi in generale non sono stati a livello degli anni precedenti e di più non a livello delle intensità delle partite. Quando c'è una partita giocata con l'intensità di ieri sera, arbitrare è già difficile e ci vogliono i migliori, perché hanno giocato le due squadre, non hanno tirato fiato, dico un secondo, un'azione, niente, vacanze per nessuno, niente, intensità 40 su 40 sia Barcellona che Cantù. C'è una partita dal piano agonistico, meglio di così non è umanamente possibile. Sì. Sì, se poi c'era anche Mizzo, magari finiva in un altro modo, però questo è senno di poi e se vogliamo anche sfiga, guarda, perché è un giocatore, Carlo, importantissimo. Sono uscite fra gli applausi 6.000 persone a Desio in grande gloria, hanno fatto il loro dovere, cioè proprio bisogna dire questo qui, chapeau, tanto di cappello a loro, ha fatto veramente un grande Eurolega. E ripeto quello che dico io sempre, cominciasse l'Eurolega domani, ok, dall'inizio, e loro Cantù sanno di poter combattere alla pari con Barcellona, hanno già fatto due partite su due, loro arrivano a quarti finali, sono idem per Milano, fra l'altro, che dopo la partita ieri sera, sì. Sono convinto di questo. Milano che ieri sera ha fatto l'impresa di vincere sul campo del Panathinaikos 67-58, impresa inutile, anche se doveva vincere di 22, che era una montagna impossibile da scalare, a tre minuti dalla fine era sopra di 15 con la palla in mano, hai visto mai che non è successo, però un segnale importante di crescita per Milano. Vittorio, pesa l'arbitraggio, ha avuto un fattore il peso politico del Barcellona su quel mancato fischio? Stiamo facendo discorsi un po' calcistici e in questo ambito di solito restano fuori. 800 24 00 24, se volete intervenire, però che sì, dici? Io in genere non parlo mai così dell'arbitraggio, perché alla fine i più e i meno si pareggiano. È chiaro che se vai sull'episodio singolo che poteva costare la qualificazione, ti soffermi un po' di più. Però in ogni caso mi associo a tutti voi per i complimenti a Cantù, che ha fatto un'Eurolega eccezionale, cioè è rientrata dopo anni in Eurolega, è arrivata a giocarsela fino all'ultimo secondo. Credo che esca rafforzata anche mentalmente da questa Eurolega. Coach, Milano fa questa impresa ad Atene, forse farà ancora più arrabbiare qualcuno, ma comunque comincia a trovare qualche raggio di sole giovani, Gentile e Melli, che ieri sera ha giocato un'altra grande partita. Guarda, ripeto quello che hai detto prima, cioè, per me questa stagione in generale è cominciata troppo presto per Milano. Milano è solamente adesso, è il Milano che loro hanno visionato proprio in estate, la squadra che vogliono, c'è proprio, ci sono stati cambi, Danilo è andato in America, Gentili è arrivato, Bremer, Drew Nicholas fuori e dentro Bremer eccetera, quindi adesso hanno la squadra che Sergio Scariolo e compagnia avevano ideato, disegnato proprio in estate. Se cominciasse l'Eurolega domani, come andrebbe Milano? Ma molto meglio, una squadra che dice: ehi, noi possiamo battere il Panathinaikos ad Atene. Loro affrontano l'Eurolega con tutta un'altra mentalità se dovesse cominciare domani e non 4 mesi fa come è successo. Cos, prima di salutarti ti seguiamo su Twitter anche questa settimana, senti questa senti questa. Amo i documentari, specie quelli sui grandi felini. Il ghepardo mi fa impressione, ma il nostro puma americano è il più bello. Questo l'hai scritto tu, questo l'ho scritto io, ma chi fa queste cose? Voi? Speaker, nostri speaker. E quella è la puma americana, cougar americano, è veramente un leone. Ma li hai visti tu, i puma americani? Di persona no. Ah. Non in il selvaggio, l'ho visto nella... giardino zoologico eccetera, così, però sono di una bellezza spaventosa, i ghepardi anche sono belli. Io sono amante dei documentari dei grandi felini, l'ho detto su Twitter ed è vero. Li vede Vittorio quando va a Denver, esatto, li vedo dal vivo. Però... e qui i miei amici a Sport Italia che sentono le mie parole, che hanno letto questo Twitter, stanno ridendo come dei pazzi, quindi non so cosa dire, però è vero, io sono tifoso, amante di quelle cose là. Grazie coach, ci sentiamo venerdì. Ciao Carlo, alla prossima, ciao a tutti. Grazie a Dan Peterson. Abbiamo già due ascoltatori, 800 24 00 24. Abbiamo anche un sacco di messaggi, 349-238-6666 è il numero per gli sms. Gianfranco, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Niente, volevo fare una domanda a Vittorio Gallinari. Prego. Cosa pensava, che se Milano mandava via Nicolas qualche tempo prima forse non sarebbe uscita l'Eurolega o non c'era nessuna possibilità? Sì, bella domanda. Ma io credo che alla fine Nicolas non si è mai inserito bene in questa squadra qua, è stato spesso molto criticato. Io penso più che altro che l'arrivo di Bremer abbia un po' cambiato la squadra, ha portato un valore aggiunto, ha cambiato un po' anche il tipo di gioco della squadra, e il fatto che ieri abbiamo vinto senza Nicolas non è sintomo del fatto che Nicolas fosse il cancro all'interno della squadra, assolutamente, hanno vinto partite importanti anche con Drew in squadra, per cui chiaramente adesso, non essendoci più lui, c'è più responsabilità sulle spalle degli altri e devono alzare il loro livello di gioco. Ci fermiamo per il traffico, subito dopo torniamo sempre con l'ascoltatore Antonio da Milano, Alessandro da Treviso. Treviso che si giocherà il passaggio in Eurocup, sta facendo una grande stagione europea. Treviso martedì in casa 19:30 contro gli Etuos Reitas, chi vince va avanti. Palla spicchi. Torniamo sempre con me Vittorio Gallinari, cui giro questo messaggio di Nicola da Carpineti. Grande Gallo, da specialista difensivo qual era? Quanto è migliorato Danilo in difesa, soprattutto nell'uno contro uno? Per me davvero tanto, deve migliorare in aiuto, scrive l'ascoltatore. Sì, Danilo è migliorato in difesa, soprattutto il fatto che pian piano ha sistemato i suoi problemi fisici alla schiena eccetera, l'hanno anche aiutato ad avere una posizione difensiva migliore. Il problema dell'aiuto in difesa è che, non so, probabilmente non molti sanno che in America esiste la regola dei 3 secondi difensivi, vuol dire che tu non puoi stare più di 3 secondi nella tua area difensivamente. Questo vuol dire che stare in una posizione di aiuto è molto difficile, sì. Devi un po' calibrare e tenere presente questi 3 secondi, per cui la posizione difensiva in aiuto è molto difficile da valutare a livello di NBA. Comunque sicuramente Danilo è migliorato da un punto di vista difensivo, anzi all'inizio molti dicevano un buon talento offensivo e c'era questa voce che alleggiava che lui non fosse un buon difensore, e invece sta dimostrando di essere un buon difensore. Senti, aspetti positivi e magari negativi della sua avventura all'Olimpia? Ma sicuramente aspetti positivi, tantissimi, perché lui è rimasto legato all'Olimpia, il suo cuore diciamo anche tatuato allo stemma di Fiero Guerriero, quindi insomma il fatto di poter tornare a giocare nell'Olimpia, nella sua città, per lui è stato un grande stimolo, una grande emozione. Aspetti negativi, diciamo che lui ha fatto un po' fatica, come con la nazionale, dopo 3 anni nell'NBA a riassorbire il gioco europeo, che è completamente diverso, meno spazi eccetera. Sicuramente non si è mai tirato indietro, alla fine, come dice anche lui quando glielo chiedono, è stata un'esperienza positiva. Sì, anche se io poi ho avuto la sensazione che Scariolo non volesse dargli la squadra in mano appositamente, perché sapeva che comunque sarebbe andato via, quindi era un ruolo molto complicato quello che ha dovuto giocare qui Danilo. Sì, era un po' particolare, perché se un giocatore dell'NBA italiano, americano, europeo viene a giocare in una squadra, di solito automaticamente assume un ruolo di protagonista principale. In questo caso non si voleva rovinare il rapporto interno della squadra, Scariolo ha deciso questo, Danilo ne era consapevole, era perfettamente d'accordo, però questa situazione ibrida ha creato magari situazioni non chiare all'interno della squadra, non di giocatori che non andassero d'accordo, perché andavano d'accordissimo, anzi andavano benissimo assieme, però sul campo probabilmente c'era una situazione particolare dove non si capiva chi poteva essere il leader di quella squadra. Esatto, in quel momento. Esatto. Antonio Milano, buongiorno. Dottor Genta, buongiorno. A lei. Volevo fare una piccola parentesi, salutare Vittorio, al quale 30 anni fa ho venduto una Vespa 150 verde. Grande Vittorio, ti ricordi? Ce l'ho ancora, non è più verde, nel frattempo è diventata rossa, però ce l'ho ancora. Cioè, ormai qua siamo diventati a caramba, che sorpresa, quando viene Recalcati, come è stata la settimana scorsa, chiama tutti i suoi amici di infanzia e pensa a te. Pensa, ti ho trovato chi mi ha venduto la Vespa, incredibile. Allora hai capito chi sono, Vittorio. Sì. Senti, un saluto caro e un abbraccio. Io avrei fatto questo intervento, poi ho acceso la radio, ho sentito che c'eri tu, e quindi con ancora maggiore piacere lo faccio. Ho allenato per tantissimi anni settori giovanili a Milano, sono rimasto a una pallacanestro D'Antoni, Meneghin, McAdoo, Gallinari e compagnia. L'altro giorno accendo la televisione e per 2 volte vedo una partita di Milano. Un disastro, ragazzi. Cioè, la più brutta pallacanestro che io abbia visto da anni. Mi spiace dire questa cosa, ma senza un playmaker come fa Milano a giocare? Ecco, era solo uno sfogo da vecchio. Senza playmaker come si fa a giocare? Perché se insomma, mi sembra che stiamo parlando di 2 ere geologiche differenti. Sì. Poi chi è stato tifoso di Milano ai miei tempi si ricorda D'Antoni. Non è più ripetibile la stessa situazione. Adesso playmaker come D'Antoni, a parte il fatto che è difficile trovarli, ma poi come tipologia di gioco non esiste più il playmaker classico. Certo. Sono tutte delle guardie adattate a play, devono avere un talento offensivo, quindi è difficilissimo pensare di riproporre le stesse situazioni. È chiaro che se qualcuno mi chiede eravate più forti voi alla Milano di adesso, io dico sempre noi, però... Sa va san dire. Alessandro Treviso, buongiorno. Buongiorno a tutti. Dica. Volevo parlare di Cantù per dire una cosa, che Cantù domenica giocherà con Treviso, no? Spero che sia la partita più importante della loro stagione, però tutto sommato la partita forse più importante per l'Italia era quella di Treviso di martedì. E Cantù non ha accettato di giocare sabato. Ora, questo è provincialismo, no? Treviso ha la partita più importante dell'anno, Treviso ha una Cantù ha una partita qualsiasi, diciamo, domenica. Sì. A meno che non sia la partita che qualsiasi la porterà lo scudetto. No, ma qualsiasi, comunque fino a un certo punto, perché Cantù ha giocato contro il Barcellona ieri sera, che era giovedì, quindi se insomma avranno le loro ragioni, non hanno certamente per Treviso un giorno in più di riposo sarebbe stato importante, però conosciamo quali sono i calendari e Vittorio conosce meglio di noi anche quali sono i calendari dell'NBA. Insomma, non ci leggo tutto questo scandalo proprio perché, insomma, Cantù ha giocato ieri sera col Barcellona. Avesse giocato il mercoledì, penso ci sarebbero stati meno problemi, no, da questo punto di vista. Che sì, dici, Vittorio? Io dico che secondo il mio punto di vista queste sono polemiche sterili, perché alla fine, ripeto, è chiaro, non è difficile paragonare le due situazioni, però in NBA fanno quest'anno addirittura il tripeat, cioè tre partite in tre giornate, per cui pensare a queste cose così è come, mi sembra una cosa molto così inutile in un certo senso. Poi dopo è vero che uno poteva avere un giorno più di riposo, un'altra squadra un giorno meno di riposo, però alla fine quando vai in campo e giochi. Sì, non c'è dubbio. Treviso comunque grande stagione europea. Ah, sicuramente. Anzi, io dico anche italiana. Cioè, in Europa sta facendo benissimo, ma anche in Italia sta facendo bene. Poi dopo ha lanciato giovani importanti, sta dando minuti importanti a dei ragazzi giovani. Ricordiamo che poi Treviso ha quasi rivoluzionato la squadra dall'inizio a adesso. No, quasi, quindi l'ha girata con un guanto, insomma, per forza di cose. Per cui sicuramente tanto di cappello, sta facendo benissimo. Non so come la pensa Stefano Michelini, che saluto, voce allenatore naturalmente, con me, voce tecnica della RAI. Ciao Stefano, come stai? Molto bene, c'è un buon sole qua a Bologna. Anche a Milano verrebbe voglia di fare tante altre cose. quasi tempo di playground, quasi tempo di playground. Tra un mesetto li apriamo tutti. Senti, vorrei parlare con te delle finali di Coppa Italia che mi hanno un pochino deluso. Non so se era fisiologico oppure no, considerato che Cantù aveva questa idea del Barcellona in testa, un po' come il Napoli, insomma. Però le finali di Coppa Italia me l'aspettavo, ho visto una grande partita, quella tra Siena e Milano, che certamente rivedremo. Me le aspettavo soprattutto quella finale un po' più combattuta. Ma io penso che tu ti riferisca in particolare, per quello che hai detto, alla finale, quindi sì, all'atteggiamento iniziale di Cantù nei confronti di Siena. E sicuramente questo è vero, ma credo che sia un rammarico che Cantù stessa abbia, perché la struttura tecnica di questa squadra, che è pur vero che, come dice Coach Trinchieri, forse gioca meno bene dell'anno scorso, ma la verità è che giocando tanto c'è meno tempo per allenarsi. Una squadra così organizzata e tecnica, meno tempo va per allenarsi e più un po' deve pagare. Ecco, forse il rammarico è solo quello dell'atteggiamento iniziale di Cantù e magari del non grandissimo coraggio sotto l'aspetto tattico nel proporsi di alcuni allenatori, magari soprattutto quando si gioca contro Siena, cambiare la faccia della squadra o cercare dei raddoppi o qualcosa che possa cambiare gli esiti delle partite. Sì. Però mediamente devo dirti che ho visto anche qualcosa, ad esempio Pesaro ha fatto cose di grandissima qualità, poi all'improvviso anche lei a livello di intensità è calata molto nella semifinale. Sì, sei d'accordo Vittorio? Siamo tornati un po' alla situazione dell'anno scorso, cioè giochi contro Siena e dici vabbè, tanto contro questi è difficile. Io credo che, sottolineo quello che ha detto Stefano in riferimento alla preparazione della partita, perché secondo me Cantù ha degli ottimi giocatori, qualcuno con non tantissimo talento, quindi, e poi l'allenatore è un allenatore che lavora molto sulla squadra, quindi se avesse avuto più tempo per preparare la squadra per quella partita sicuramente l'avrebbe affrontata in modo diverso. Stefano, si ricomincia a giocare in campionato, per il primo posto secondo me corsa finita e ne sono certo. Per la salvezza la vedo lunghissima sul campo, ma la vedo lunghissima anche quando sarà finita sul campo e ci saranno da fare i conti. Quindi tu, c'è una storia lunga di tanti mesi per questa salvezza. Limitiamoci al campo, diciamo che la Novia ha un'identità, ma questa identità è spesso buona e farà male, questo agli amici di Casale, per 39 minuti e 30 secondi, è terribile dirlo, ma è così, è un'ottima identità. E Cremona, a Caia, che tira fuori il meglio dai suoi, e Teramo e la Fabi riescono a, secondo me, a trovare buone cose, hanno sia Valli che Ramagli, stanno tirando fuori tanto da queste squadre. Allora io dico che sarà una lotta durissima fino alla fine sul campo, per il resto che dirti? No, non c'è una risposta. Stefano, ti ringrazio, buon lavoro. alla prossima. Buon lavoro a tutti voi, buon pomeriggio. Grazie a Stefano Michelini. La battaglia fuori dal campo sarà ancora più lunga ed è questo uno dei grandi mali della nostra pallacanestro, no, Vittorio? Non possiamo sempre girarci dall'altra parte quando sappiamo benissimo che ci sono diverse società con tanti problemi economici. Sì, aveva fatto... E poi vediamo chi si salva, chi paga i giocatori, chi arriva a fine mese, a fine stagione, eccetera, eccetera. Lo sappiamo tutti che ci sono squadre in difficoltà, chi più, chi meno. Una delle ultime uscite di Superbasket aveva fatto proprio un'analisi delle squadre mettendo il pallino rosso su quelle in difficoltà. La speranza è che queste difficoltà non vadano a incidere sul risultato anche sportivo, nel senso che queste squadre riescono a tenere un organico. Ci ricordiamo Napoli che ha giocato con Juniores, con una cosa indecente in questo senso qua. Sicuramente una volta finito il campionato bisognerà fare i conti, bisognerà mettersi lì un attimino e capire quali squadre saranno in grado di affrontare il prossimo campionato. Palla spicchi. Torniamo con Vittorio Gallinari e con un suo concittadino, Alberto della provincia di Lodi. 800 24 00 24. Non so se ti ha venduto una Vespa anche lui. Non so, no, mi sono dimenticato. Una sola. Ne hai una sola? Mi sono dimenticato di chiedere all'ascoltatore di prima se magari la rivolevi indietro. Alberto, buongiorno. Buongiorno, dottor Gente, buongiorno. Un caro saluto a Vittorio. Io sono Alberto da Casale, con Vittorio ho giocato qualche anno fa, qualche allenamento, forse non si ricorda. Sì, vero, con la Figeco, con Maurizio. Sì, con Maurizio. Esatto. Un caro saluto a te, alla famiglia, anche a Danilo. Volevo solamente un vostro parere sull'allenatore Andrea Trinchieri. Un mio amico, collega, qualche anno fa mi disse al suo arrivo a Solesina, l'arrivo di Trinchieri a Solesina, questo Andrea, riferito a Trinchieri, vedrai che nel giro di pochi anni vincerà non mi ricordo se l'Eurolega o lo Scudetto, mi disse. Io rimasi un po' lì e disse no, questo qui ha del talento da vendere, questo qui la fa lunga, preparatissimo, veramente uno forte. Poi ci vogliono i giocatori, per li trovare bisogna trovare l'ambiente giusto, e Cantù è veramente una piazza perfetta per Trinchieri. Però è un po' come giocatore, mi sembra, vedi il talento, no? Un po' come quando Danilo giocava con noi alla Segeco a 15-16 anni, qualcuno sugli spalti diceva questo qui lo vedremo nell'NBA. Si scherzava un po', però mica tanto, perché era il più forte giocatore quindicenne d'Europa in quel momento, e niente, vi ascolterà di allora. Ciao Vittorio. Ciao. Trinchieri è bravo. No, assolutamente. Anche se io ho un messaggio di un ascoltatore che scrive a me, tecnicamente coach Trinchieri non piace, non mi sono piaciuti i time out, non mi è piaciuto come ha impostato la gara con Siena. A me sembra un allenatore che sta facendo un lavoro meraviglioso in una piazza in cui tutto sommato è tra molte virgolette semplice lavorare, non raggiungere ovviamente questi risultati. Però è un'isola felice, Cantù. Sì, è un'isola felice, è un'isola dove puoi lavorare con tranquillità, non è Milano, non c'è la pressione che c'è a Milano, però devo anche dire che rispetto agli anni passati anche Cantù ha alzato un po' il livello dell'asticella, cioè ha alzato un po' il budget, quindi anche diciamo l'ambiente si aspettava risultati importanti, che sono quelli che indubbiamente sono arrivati. Trinchieri credo che abbia dimostrato sia a Cremona e sta dimostrando adesso di essere veramente un ottimo allenatore. Riesce secondo me a far rendere i propri giocatori al massimo delle proprie potenzialità, cioè riesce a metterli nelle condizioni di rendere al massimo. È chiaro che poi dopo la qualità dei giocatori fa anche la differenza, però lui riesce a metterli assieme molto bene. Sì, poi io ho detto molte volte che questa Cantù, soprattutto nella sua anima, nella sua versione europea, a me ha ricordato tanto la vostra prima Milano, il primo Billy che giocò la Coppa dei Campioni. Insomma, c'era quell'anima lì, c'era anche quell'ambiente lì, c'era quello spirito, c'era quella capacità di andare oltre il limite. Sì, infatti i risultati loro lo dimostrano, perché primo anno che torna in Eurolega dopo tanti anni, passano il primo turno e se la giocano fino alla fine, sempre lottando col coltello fra i denti. Questa è una caratteristica che sa trasmettere molto bene l'allenatore. Quindi voglio dire, le qualità, oltre che tecniche dell'allenatore, si vedono anche come i giocatori si mettono sul campo e reagiscono alle sollecitazioni sul campo. Cantù penso che tranne la finale con Siena, tutte le altre partite in Eurolega se le giocate fino all'ultimo secondo, lottando fino all'ultimo secondo. E poi quando tu ti metti davanti alla televisione e guardi una partita di Cantù, insomma, alla fine stai lì fino alla fine perché sai che lotteranno fino alla fine. Questa è una cosa sicuramente per chiunque importante. Senti, l'altro giorno apro il Corriere della Sera e leggo, questo te lo chiedo da procuratore, da agente, leggo: idea Milano ingaggiare Minucci, Deus Ex Machina di Siena, come il presidente della Montepaschi Siena. Ci hanno provato con i giocatori tutti gli anni, non è mai andata bene, adesso non so quanto ci sia di vero, di fantasioso, di suggestivo tanto. Esatto, ma non so nemmeno io quanto possa essere di vero. Sicuramente Minucci ha dimostrato in questi anni di avere delle grosse qualità e grosse capacità. E se vogliamo un po' paragonare le situazioni del basket a quelle aziendali tipiche, quando un'azienda vuole ottenere dei risultati, magari va fra virgolette a rubare il miglior direttore, il miglior presidente di altre aziende. In questa situazione qua Minucci è indubbiamente il migliore che c'è in Italia, probabilmente non è così lontana l'idea di dire: se Milano vuole raggiungere risultati importanti, nel limite del possibile vado a cercare il migliore. Poi non so se sia una cosa fattibile o meno, però indubbiamente ci può stare. Io la butto lì grossa, poi sentiamo Carlo da Milano: l'avrei visto anche bene ad affiancare Pianigiani in nazionale. Ma sai, poi era una cosa in quel senso lì un po' esagerata, nel senso che portavi l'allenatore della nazionale, portavi il general manager di Siena in nazionale. Un po' troppo americano. Su questo non sarei molto d'accordo, però. Carlo, buongiorno. Sì, buongiorno. Volevo farvi una domanda riguardante la semifinale tra Milano e Siena, sì, di Coppa Italia. Premetto, io non ho mai giocato a basket, quindi di schemi, di tattica non è che so moltissimo. Quando mancavano 50 secondi alla fine, Milano era sopra di 2, palla in mano a Siena in attacco con ancora 15 secondi da giocare. Milano fa un fallo, secondo me è evitabile. Siena va in lunetta, due tiri liberi, Milano prende palla, va in attacco e quando gli mancano ancora 15 secondi fa un tiro forzato da 3 che sbaglia. Secondo me qua si è decisa la semifinale. E volevo sapere da voi, che siete più esperti di me, il motivo di questa scelta tattica, secondo me sbagliata. Si poteva benissimo far giocare Siena fino allo scadere del suo tempo, magari segnava da 2, poteva segnare da 3, poteva anche sbagliare. Ma no, il fallo tattico ci stava. Ma sì, penso che alla fine il risultato negativo fa poi ripensare agli episodi. Certo. Se fosse finito in altro modo uno direbbe: ma guarda, è stata una genialata. Scelta, una genialata, per cui io mi ricordo una vita fa, quando ancora potevi scegliere se tirare i tiri liberi o non tirarli, noi abbiamo perso fra virgolette un campionato col coach proprio perché abbiamo scelto di tirare i tiri liberi. Quindi quando tu fai una scelta, alla fine il risultato di questa scelta condiziona anche poi dopo i se e i ma che si possono dire. 800 24 00 24, adesso ti faccio sentire una cosa. Sai, già Maria Vacerca l'abbiamo coinvolto, gli abbiamo chiesto di presentarci una partita a settimana, ma non tanto sul campo da basket quanto al ristorante. Basket Chef, senti questa. Basket Chef. C'era l'impero di Roma, oggi c'è l'impero di Siena. Assoluto e sconfortante per gli altri. È una grande sfida anche perché la Virtus, oggi targata CEA, nel lustro che ci siamo lasciati indietro, è la squadra che è andata più vicina di tutte a vincere una finale scudetto contro i figli del Palio. È dura parlare di cucina guardando lo chassis di chi governa le due realtà in sede e in panchina. Claudio Toti, Pier Giorgio Bottai, Antonello Riva, Marco Calvani, Ferdinando Minucci e Simone Pianigiani sono degli autentici figurini. Ma con le gambe sotto il tavolo, in giro per la città più bella del mondo, a caccia di prelibatezze, ci andiamo noi e i nostri 25 lettori. Quindi il gioco si fa duro. Amo il quartiere ebraico, dove risiede la più antica comunità di ebrei della diaspora, che ogni mattina non si fa mancare una fetta di crostata viscera ricotta al forno del ghetto. Un must per tutta la città e anche per me. Chef da 4 soldi, al quarto tentativo di interpretazione, ovviamente mai riuscito. A Siena vi direbbero che il panforte durissimo e speziato non è uguale. Provatelo con i migliacci, le frittelle fatte col sanguinaccio e i pinoli. È vero, siamo partiti dalla fine, da quel sequel di bicchieri di vin santo con i cantuccini che ti ammazzano il caffè, ma credetemi, è solo questione di gusti. È troppo facile giocarsela con l'abbacchio contro la chianina e i cannellini, oppure con la gricia contro i pici con la briciolata, oppure ancora con la porchetta di ariccia contro la finocchiona o la soppressata. La papa al pomodoro o il cacio e pepe, Amatrice e Monteriggioni, i parolacciai e i vinattieri, il mangia o una gita dalla Stevere per la carbonara, i carciofi alla giudia, la coda alla vaccinara, la pagliata, i saltimbocca, le puntarelle con la salsa d'acciughe, basta, esplodiamo, cambiamo taglia e pure partita. Allora ci organizziamo una sfida tra pecorini. Il romano ha 2000 anni di storia, lo mangiavano gli imperatori ed aveva lo stesso gusto che oggi amiamo noi, perché la lavorazione non è cambiata. Caglio di agnello, latte di capra, bello piccante. Quello di Siena è morbido e burroso, è fatto col caglio di capretto, va accompagnato con le fave, è dolce se fresco e piccante se stagionato. Noi vi proponiamo un abbinamento incrociato. Bevete un rosso toscano con il pecorino romano e un bianco dei Castelli Romani con il pecorino senese. Magari un Epos di Monte Porzio Catone, un Frascati Superiore straordinario e pluripremiato. E allora mamma, tutta la pasta! Piaciuta questa. Sì, sì. Gianmaria. Ma poi tu al Torchietto, io sto leggendo il libro di Franco Casalini, tu al Torchietto andavi solo in caso di sconfitta, solo in caso di emergenza, eri l'unico che esatto, non partecipava. Esatto. Partecipavo raramente, raramente. Però erano situazioni, il vecchio Torchietto, mitico Torchietto, per Gianmaria secondo me lui aveva un ruolo molto stretto, fare il general manager per lui era un po' con la sua fantasia eccetera, adesso sentendo questo probabilmente ha trovato la sua collocazione. Beh, ideale, questo blog Basket Kitchen ha detto presentaci una partita mentre si insomma per quelli che vanno al dopo partita insomma. Altro tema, cosa fare della Lega 2, Vittorio? Bah, questa della riforma dei campionati è veramente tema scottante, soprattutto perché è una riforma che è arrivata imposta dall'alto. Io sono sempre convinto che nel limite del possibile, quando tu fai delle riforme devi sentire prima le esigenze della base e in base a quelle esigenze cambiare quello che sono poi i campionati. In questo caso è arrivato il diktat dall'alto e chiaramente la Lega 2 sta subendo questa riforma. Io credo che il ritorno in un certo senso al dilettantismo possa aiutare molte società. Sì. Basta che dilettantismo non voglia dire poi dopo sfasciare le organizzazioni, perché se poi dopo il dilettantismo vuol dire facciamo tutto in casa, tutti amici, fratelli eccetera, diventa una cosa che diventa ingestibile, per cui io spero che il dilettantismo possa far sì che i soldi risparmiati vengano investiti nella struttura delle società. Sì, non per fare i retrogradi, ma una vecchia Serie A2, come era ormai molti anni fa, è davvero una cosa stupida, è davvero una cosa improponibile. No, è una cosa. Due americani, due secondo stranieri. Me, esatto, due stranieri o un americano, un comunitario e poi spazio agli italiani. Poi permettimi di dire che anche il discorso dei passaportati, si fa fatica a pensare di considerare straniero un giocatore come Mazzarino, che in Italia non so, da 10 anni e ai figli nati in Italia lo consideri da domani diventa straniero. Cioè. Anche lì bisognerebbe avere un occhio di riguardo per queste situazioni. Palla spicchi. Torniamo insieme, sempre con me Vittorio Gallinari, 800 24 00 24 è il numero verde. Della Milano di Melli e Gentile cosa mi dici, Vittorio? Prima abbiamo parlato un po' qualcosa di sfuggita. Ma guarda. Vedi, ci sono segnali contraddittori. Alcuni segnali di crescita, altri di regresso, la sconfitta, vinci una partita importante come quella di Bologna, perdi in casa con Sassari, adesso vai a vincere ad Atene e poi domenica chissà giochi in casa contro Casale, però non ci sono grandissime certezze. No, io avevo visto la partita di Milano con Sassari la domenica, partita bruttissima, persa male in casa. Poi dopo vedo la partita di Coppa Italia con Siena, la prima quella con Bologna, vinta eccetera, con Siena giocata fino alla fine, stanno arrivando segnali di continuità. Probabilmente qual è la strada secondo te? Ma secondo me la strada è quella di cercare di non fare più rivoluzione all'interno della squadra, continuare a dare fiducia a Gentile, a Melli, a questi ragazzi giovani che stanno dimostrando di poterci stare e dare una continuità in questo senso qua, perché uno degli insegnamenti secondo me importanti di Minucci è che negli anni non ha mai rivoluzionato la squadra, ha sempre fatto delle aggiunte, un giocatore, due giocatori, dove riteneva opportuno farlo insieme all'allenatore, e questo ha creato questo gruppo. Ecco, creare un gruppo è importante, perché quando tu hai un gruppo solido poi puoi aggiungere un giocatore, certo, o toglierlo, non cambia il concetto. Sì, ci sono a mio parere dei vizi strutturali. Ayrton è appena tornato, beh, ieri sera praticamente è stato ininfluente in questa vittoria di Milano ad Atene. È, può essere forse tecnicamente il capogiocatore, ancora io però non vedo un leader in questa squadra. No, non c'è ancora un leader, anche se Bremer ha portato così una ventata di freschezza, e credo che anche Scariolo stia dando un po' a Bremer il ruolo di leader, secondo me, perché nei momenti importanti lo mette dentro, quando la squadra è in difficoltà lo mette dentro, sta dando un segnale secondo me importante. E anche il fatto di rinunciare a Nicolas vuol dire che dà più spazio, oltre ai due ragazzi italiani, anche all'interno della squadra, come importanza di Bremer, che ha un po' surclassato Cook in questo. Sì, Cook sì, doveva sì, essere sì, sì, l'uomo di riferimento, e invece probabilmente adesso lo sta diventando Bremer. Si è visto qualche limite. Saluto e ringrazio Flavio Tranquillo di ritorno dagli States. Ciao Flavio. Buongiorno. Sei tornato in tempo, immagino, per così intristirti è una parola sbagliata, per piangere per Cantù. Sì, sono riuscito anche ad andare a vedere la partita, però ti sei alzato in piedi no, infatti ti sarei alzato in piedi insieme agli altri ad applaudire. Sì, assolutamente, perché non solo per la partita in sé, ma in generale per tutta l'Eurolega. È stata una bellissima Eurolega, è stata una bellissima cosa vedere un campo che prima praticamente non esisteva, come Desio, che ha preso vita, e penso che l'esperimento verrà ripetuto a breve, di metterci dentro tanta gente per vedere le partite di Cantù. Vittorio mi ha appena confermato che Danilo i primi di marzo è pronto, magari Denver ricomincia a vincere qualche partita. Possibile, ne hanno un grande bisogno, però sono stati molto, molto sfortunati, perché oltre a lui perdere Nenè per tanto tempo, è una squadra che ha degli equilibri di un certo tipo, e se cominci a levare due pedine di questo genere, però secondo me così si nascondono ancora, arrivano più a fari spenti ai playoff. Se ci arrivano i playoff sono pericolosi comunque, anche se arrivassero ottavi, per dire. Comunque Vittorio, siete convinti e contenti? Comunque, beh, le cifre su quel contratto sono importanti, le conosciamo, sono note pubbliche. Mi dicevi che potevano essere esplorate altre alternative di franchigia che lottano per il titolo, però la scelta è convincente da tutti i punti di vista. Sì, Danilo poteva aspettare a luglio, entrare nel mercato dei restricted free agent, e probabilmente poteva arrivare ad avere un contratto economicamente migliore e in squadre magari che potessero puntare subito al titolo. La scelta di stare a Denver è stata perché lui si trova bene con la società, con i compagni, e poi oggettivamente la squadra è giovane e secondo me potrà dare soddisfazioni sia ai tifosi che ai giocatori stessi, perché quando erano al completo ha dimostrato di potersela giocare con tutti. Tu Flavio come la valuti? Ma io la valuto come una squadra che riesce a essere abbastanza diversa dalle altre squadre NBA, ad avere un'identità diversa, perché l'allenatore ha una mentalità, delle convinzioni diverse, e questo secondo me è importantissimo, perché l'NBA, che non esiste in quanto tale, esistono 30 squadre, 30 allenatori, 30 general manager, 30 ambienti, eccetera, eccetera, se presa come fenomeno, ha un po' il problema di essere ripetitiva, strutturata, obbediente sempre alle stesse regole. Uno che va un po' fuori dai canoni normali, e non tanto per divertirsi, ma perché ha delle convinzioni forti, secondo me è un qualche cosa su cui lavorare. In più hanno creato una situazione in cui hanno avuto la libertà di fare delle scelte, quindi hanno dato a Danilo, a Nenè, credo lo daranno a Ty Lawson, il compito di provarci per davvero. Mi sembra un futuro a breve e a medio di un certo interesse. Una sfida interessante. A proposito di fenomeni, l'Insanity l'hai vissuta e ce l'hai raccontata dagli Stati Uniti in diretta. Nella notte asfaltato Lin da LeBron James e dai Miami Heat, per la prima volta abbiamo visto un giocatore da 1 su 11, 8 palle perse, e dici vabbè, adesso cosa succede? Ma adesso non succede niente, nel senso che intanto una partita su 66 o 82 è nulla. Se qualcuno pensava che Lin potesse avere le cifre di Magic Johnson, Larry Bird e Michael Jordan per tutta la carriera, evidentemente si stava confondendo. E soprattutto la squadra in cui sta giocando adesso Jeremy Lin non ha nulla a che fare con la squadra in cui giocava due settimane fa, perché l'arrivo di J.R. Smith, il rientro di Carmelo Anthony, il fatto che bisogna sistemare Amari Stoudemire e il fatto che adesso c'è anche Baron Davis, ci sono solamente questi quattro giocatori che prima non c'erano, il che cambia completamente il sistema e che cambia completamente l'impatto di Lin, che è un buonissimo giocatore, ma non può essere un giocatore da 25-11 in una squadra con queste caratteristiche. Certo, ci vorrebbe la testa di D'Antoni, che sceglieva se quando dare il pallone a Cooper che quando a Sylvester, dosando questi passaggi e questi tiri. Un'ultima cosa, Flavio, nella notte sempre Oklahoma contro Lakers 185, durante Westbrook 33 più 19, in questo momento sembrano Jordan e Pippen. Ma in questo momento una delle poche sicurezze che ho in questo momento, avendolo visto recentemente, è che Kevin Durant è il miglior giocatore dell'NBA, non dico a mani basse ma quasi a mani basse. È imbarazzante la facilità che ha nel giocare a pallacanestro. E Russell Westbrook è un giocatore di cui si vedono tanto i difetti, però bisognerebbe anche sforzarsi di vedere i pregi, e hanno una dimensione atletica che per esempio per i Lakers, soprattutto i Lakers in back to back e in mezzo a qualche altro tipo di questione in campo e fuori, è assolutamente ingestibile. Non c'è una possibilità che i Lakers in back to back possano andare a Oklahoma City e giocarsela da pari a pari con quegli atleti. Bisogna sempre guardare il calendario per capire l'NBA, altrimenti ci confondiamo. Grazie Flavio, ci sentiamo domenica. Saluti a voi. Grazie Flavio, tranquillo, l'ho detta grossa? No, assolutamente. Io credo che sono d'accordo con Flavio, perché Durant è veramente in questo momento il numero uno, meglio di LeBron, perché ha una facilità a trovare soluzioni incredibili. E io oltre a Westbrook e Durant gli metterei anche il contorno, perché Ibaka lì in mezzo, voglio dire, contro Denver ha fatto 11 stoppate, quindi dà una grossa mano sicuramente. Certo. E quanto a Lin invece come la pensi? Prima di io penso che l'NBA è stata contentissima, perché scoprire un personaggio così è fenomenale per il marketing e tutto quanto. Non è quello delle prime partite, come ha detto Flavio, rientra Carmelo Anthony, rientra J.R. Smith, rientra Baron Davis, assolutamente lui deve ritagliarsi un ruolo completamente diverso, però sicuramente per tutto il mondo dell'NBA è stata veramente una grande scoperta. Grazie Vittorio, torna presto, non stare lontano così tanto tempo da Pallaspicchi. Grazie davvero. Non mancherò. Grazie Vittorio Gallinari, Giorgio Lunghi in redazione, Fabio Cantadori in regia, ci sentiamo con lo sport domani pomeriggio alle 5.